Quando per esempio mia moglie venne ad abitare da queste parti per seguirmi in questa strana zona che è la campagna intorno a Roma, Roma non ha un suo hinterland. Roma ha queste borgate, alcune delle quali sono ormai collegate tra loro, altre invece ancora sono piazzate in mezzo ai campi, a una realtà post-industriale. È rimasta sempre molto colpita dal fatto, lei veniva da Genova dove gli spazi ce ne sono molto pochi, appunto da questi grandi spazi che ci sono intorno alla città, che quindi decide di espandersi in direzioni abbastanza casuali tutto sommato, cioè non c'è un motivo, ogni tanto c'è una pulsione di origine storica, no? Qualcuno decide che la città deve espandersi verso il mare, poi passano 30 anni e fondamentalmente per motivi ideologici si decide che la città deve espandersi ad est, anche se è un errore urbanistico. E soltanto dopo un po' ci si rende conto che l'idea dell'espansione verso il mare, forse era l'unica buona idea di quei dirigenti politici, doveva essere recuperata. E così è affascinante. Tutta questa zona, per esempio, che c'è tra Roma e il mare è veramente affascinante, perché cioè, per esempio la discarica di Malagrotta è un posto dove io ambienterei un video musicale o il finale di un film con Schwarzenegger. Per non parlare della raffineria, ecco, lì veramente è un posto dove si potrebbe far finire il cattivo in un deposito di scorie. Un po' come in Robocop.